echte ervaring. Service safe. Il fiero web letterario italiano si dimena come un portento anche in questa settimana di fatali coincidenze calendariali social, storico, politico, religiose. Vediamo quindi le ultime dal fronte per quanto riguarda quei bolscevichi di Barabba, i turbo gerarchi di finzioni e la potenza plutocratica del primo amore. È uscito il secondo scheggio di Liberazione, curato dai tipi di Barabba, e più nello specifico dal Marco Manicardi, e che raccoglie attorno al tema della resistenza per il secondo anno consecutivo una ridda di bloggers più e meno noti. Il pericolo in un'operazione del genere è quello di avere a che fare con un collettivo pat-pat sulle spalle fra amici, con un allarme hipsterismo fisso a DEFCON 1. Vedi anche le foto e i video delle varie letture in pubblico. La materia però è nobile. Il PDF è gratis, uno sforzo di lettura dopo tutto lo si può anche fare. La corazzata Finzioni, dopo la ripartenza della scorsa settimana, macina articoli a una velocità impressionante. Peccato che la quantità annacqui di molto la qualità, l'attenzione e la precisione. E sì, sto parlando anche del fatto che confondere, come avviene nell'articolo sulla morte dell'uomo ragno, la linea Ultimate della Marvel, ambientata sulla Terra 1610, con la linea principale ambientata sulla Terra 616, è nerdianamente imperdonabile. L'indirizzo editoriale è cambiato, d'accordo, e magari ci vuole un po' di tempo per mettere a fuoco il cammino, ma al momento sembra che stiano a cannoneggiare un po' troppo nel buio. Sul primo amore, in una front page stranamente scevra dai soliti deliqui scarpiani, ma non dalle altrettanto solite automarchette incensanti, molto gustosi sono i post contro i clochard del Baratto, le riflessioni sulla velocità del buio del Fontana a firma del Tarabbia e amore e violenza della Melandri. Assolutamente imperdibile è il resoconto di una fantoziana scarpinata che il Moresco si è fatta da Milano a Pavia come preambolo dell'iniziativa Cammina Cammina, messa in piedi da Tribù d'Italia. Il risultato di 33 km di marcia per più di 8 ore di escursione, oltre a un vieto resoconto socio-paesaggistico, si riduce a una lista di consigli. Scarpe comode, bottiglie d'acqua, creme solari, cappellini, che ci si aspetterebbe più da uno scout 14enne che non dal profeta dell'imminente autodistruzione dell'umanità.